tipuan. Mikro klima hortan matrisi dia mundu matrisa. Ozen demonio segresan zisten haumetokinan. Zapeleko hormak dardazuten honek ustietan. Lutpoi astronauta tantzan izurka jamiotipuan. Mikro matrisi diha mundu matrisa. Ozen demonio zegoen zauzuzten haumetokia. Ascoltando appunto un po' di sano rap. Instead of shooting you soon for libel. Everybody hate me cause I stick true to the facts. The Ku Klux Klan hate me more than Jews and blacks. Yeah, you over for certain. You can pray to whoever, Jehovah, Buddha, Allah, Jesus, Mother Mary, the Virgin. Is it the violence that the TV taught us? I grew up worshiping Charles Bronson, John Rambo, and Chuck Norris. Pass hands to the Tasmanian Damien. Rapping the Panian, cracking your cranium. I'm macking mahogany at the Palladium. I'm Bruce Leroy, you Eddie Arcadian. I got the Gad in the black and the Arabian. I'm waterboarding like Dick Cheney. And hey, yo, back at the front Thursday of my birth. The moment I was born, I was condemned by the Catholic Church. War's all battling, the streets we inhabiting. I'm sugar like Ray Robinson, you ain't even staggering. Leaving you staggering, making an impact. New York, we created this rap. This a blatant attack. East Coast, we taking it back. Come on. Motherfuckers live, it was truly compassion. I brutally bash them, cause I'm steadily losing my passion. A Louis to stab them, or to shoot them with two different magnums. I'm usually bagging, carry hawks like I'm Julian Jackson. I rob them for Gucci, I'm a thief, these are Lucifer's actions. I'm a provider, I'm a messiah, Jesus' assassin. I don't think it's anybody living that truly could match them. I slaughtered Buddha through the computer, Medusa's companion. A lot of rappers wanna beef with the lion. Ain't too many people that's as fucking lethal as I am. I feast them and fry them, Vinny, so at peace with the violence. I exercise absolute power, peace to the tyrants. I'm old school like quarter waters and eating in silence. You new school like faggot rappers competing for prizes. I'ma send you to the afterlife, speak to Osiris. And when he asks you why you there, tell him the lethal is virus. Yeah. Eccoci nuovamente in diretta sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Abbiamo qui in studio i Rapcore, una esperienza di musica rap indipendente della capitale, e siamo qui appunto con loro per farci una bella chiacchierata su quello che è la loro esperienza, questo collettivo formatosi nel 2009. Allora iniziamo subito parlando con Deal e chiedendogli chi sono e quando nasce il progetto Rapcore. A posto, allora appunto per iniziare subito ad ascoltare che musica fanno questi rapper, partiamo con Pugni al Cielo. Mano d'opera a basso prezzo. Oggi non servono assolutamente nulla. Il precariato è questo il tempo del precariato. Per oggi mangio, per oggi vivo. Domani, meglio non pensare. Ehi, ehi. Io scrivo strofe pensando a un colpo di stato. Il fiato come propaganda cambia un disperato in un soldato. Chi è nato condannato, chi soffre. Che fasciste fanno masse crocifisse. Adesso ascolta, rimo, ispiro una rivolta. Rappresento chi si rompe il culo in cerca di una svolta. Disperati, disagiati, nati con un ceto basso. Grido viva la rivoluzione come Fidel Castro. Non mi abbasso a nessuno, se digiuno stringo i denti. Ma il lavoro non si trova quando hai carichi pendenti. Con rapcore giro fiero, guerrigliero, resto vero. Pugni al cielo, battagliero, il suono che pompa lo stereo. Libri al posto delle armi e rispetto al primo posto. E fanculo, troie e fani e chi ci sputa merda addosso. Voi sprecatevi in parole perché noi facciamo i fatti. Noi rapcore militanti, sempre uniti e più compatti. Voglio vedervi tutti con il pugno al cielo. Chi è stanco e dice basta e alza. Sei pugno al cielo. Chi tasca solo sogni però è pugno al cielo. È rapcore evoluzione. L'Italia è pugno al cielo. Voglio vedervi tutti con il pugno al cielo. Chi è stanco e dice basta e alza. Sei pugno al cielo. Chi tasca solo sogni però è pugno al cielo. È rapcore evoluzione. L'Italia è pugno al cielo. Voglio vedere pugni al cielo. Per chi è chiuso in carcere, per chi ha il gelo dentro ormai non riesce neanche a piangere. Voglio i pugni al cielo per chi soffre e tira avanti, per chi ha il fuoco negli sguardi. Gente seria, puoi fidarti. Io parlo con i fatti, dimostrando che ho carattere. Il mio mic è calibrato, programmato per combattere. Porto tante rime come colpi di un propeller. Storyteller di molti amori trasformati in guerre. Rapcore evolution con il suono della caglie. Microfoni impugnati come fossero mitraglie. Puntate caricate su chi ruba senza dircelo. A breve cioccolata anche la tassa sull'ossigeno. Pugni al cielo se stai stretto dentro a questa Italia. Se come ardeano ogni tua idea è rivoluzionaria. Nel 2009 rapcore muove carichi pesanti. Rime dure pure come punte di diamanti. Voglio vedervi tutti con i pugni al cielo. Chi è stanco e dice basta e alza i pugni al cielo. Chi in tasca solo sogni però è i pugni al cielo. È rapcore evoluzione l'Italia. I pugni al cielo. Voglio vedervi tutti con i pugni al cielo. Chi è stanco e dice basta e alza i pugni al cielo. Chi in tasca solo sogni però i pugni al cielo. È rapcore evoluzione l'Italia. I pugni al cielo. Fratelli loro non me fido, non posso. Rimo con l'acciaio vivo addosso. Fuori un Carlino che fa il molosso. Paghi il costo di ogni tua menzogna. Porti in ogni posto con l'inchiostro. Ma non senti la puzza della fogna. Mando alla gogna infami magistrati e finanzieri. Siamo guerrieri armati dei microfoni e non dei veri. Con la miseria dagli steri. Ora la gente serie negli impianti. Pugni in cielo tutti quanti. Per rapcore militanti. Non preghiamo santi da ste parti. Non ci aiutano. I bastardi dei piani alti ci rifiutano. Sputano e calpestano tutti i nostri diritti. Abusano, accusano e ci arrestano per i loro delitti. Vorrebbero vederci afflitti, rinchiusi, buoni e siti. Ma non teniamo gli occhi chiusi e non viviamo da sconfitti. Lascio testi scritti per far capire che non sono tutti finti. Che i rapper veri qui non si sono ancora estinti. Eccoci di nuovo in diretta sugli 87.9. Questa era Pugni al cielo dei Rapcore. E allora entriamo subito nel vivo della trasmissione e andiamo a chiedere, insomma, al Cream, il producer di questa giovanissima band, come appunto si produce un beat, com'è la costruzione, diciamo, del lavoro musicale che c'è dietro i Rapcore. Il lavoro musicale intanto è la prima cosa che si gestisce in una canzone. Se parte, necessariamente si deve partire da un argomento o comunque da un campione, una musica che ci permette di appunto scrivere un testo che sia comunque coerente con quello che poi la trasmette anche attraverso un beat. Il beat parte principalmente da come strutturarlo e quali strumenti usare almeno all'inizio. Poi la produzione del beat viene anche frutto di un'ispirazione momentanea, insomma, dove sei, di quello che vuoi parlare, insomma, anche il beat comunque sono sensazioni d'animo. Ok, perfetto. Sappiamo che l'ultimo lavoro appunto che sta producendo i Rapcore è Intifada, e visto che è appunto un lavoro fresco di nuova produzione, e il beat di questo nuovo lavoro come da che ispirazione? Allora, da che traggo un'ispirazione? Intifada trae anche ispirazione dai generi musicali che ascoltiamo. Se comunque se una persona che ascolterà con orecchio il nostro CD quando uscirà, speriamo presto, si accorgerà che ci sono molti generi campionati dentro. E questo forse anche per far capire che noi siamo cresciuti anche con altri generi e non con il rap. Almeno io personalmente sono cresciuto con altri generi, ho voluto mischiare sia dal rock sia dall'hardcore, che sia magari da un blues, comunque una stampa abbastanza potente, abbastanza rapcore, insomma. Forte, forte. Allora entriamo subito nel vivo di, diciamo, dell'ascolto di Intifada. Andiamoci ad ascoltare uno dei pezzi estratti, quello che ci sembrava più interessante da far ascoltare qui in radio. E abbiamo Terra di conflitti. Alla ricerca del sapere, sugli abusi di potere, dove uccidere è un dovere. Vuoi vedere come stiamo ermano? Sono giorni tristi, ministri che stringono le mani ai terroristi. Questo è il bel paese che si maschera borghese, ma tutti ormai lo sanno che l'inganno è palese. I miei non ce la fanno ad arrivare a fine mese, indossano il passamontagna, vanno a fare spese. Potente delinquente schiaccia sempre l'indifeso, il popolo saluta il papa con il braccio teso. È il peso degli sbagli di sciacalli che governano, io porto la voce di quelli che si ribellano.

prigione, ascoltano più un ragazzo della Mondani che sta spiegando il mondo logico di cantante che sta puntando e fa lo schifo. Chiaro, chiaro, chiaro, beh, mi pare che il riferimento è chiaro. Andiamoci a ascoltare subito un altro pezzo e questa è Blasfemi e Maledetti. Inventarti nomi e fatti ma più fottono gli sguardi. Provano a incastrarmi in tutti i modi. Parlo schietto, è giusto che mi nodi. Tutto è su bagagli e colpo vuoti. Non do fuori a chi è ucciso Cucci e Sandri. Tu parli, parli, ma i consensi qui non puoi comprarli. Voglio impavagliarmi, gettarmi in pasto agli sciacalli, ma soltargli versi senza tagli per calmarli. Ho paura di svegliarmi un giorno, abituarmi a quello che ho intorno. Poi chiudo gli occhi e sogno. Come Jordan nel finale contro Utah. Un lupo solitario che ti morde e non ti annuncia. Mi sento come Brandon Lee che muore nel suo film. Mi sento come Marshall solo senza proof e Kim. Il reverendo King urlando a Eva Dream. Un rapper di Long Island ispirato da Rakim. Mi sento come Gandhi, un guerriero senza armi. Mi sento come il sole ma nessuno può slissarmi. Mi sento come Che Guevara al fianco di Fidel. Le metriche di panne sopra il beat di B.U.R. Mi sento come Pac, figlio di una madre sola. Blasfemo maledetto e solo il rap mi consola. Mi sento come Bob che malato prega già. Rolla l'ultimo cannone poi raggiunge l'aldilà. Mi sento un viaggiatore che compila il suo diario. Me stesso sono un uomo, un rapper rivoluzionario. Come Kanye quando ha scritto Through the Wire. Mi sento come Benson quando ha fatto Man on Fire. È come se mi tengono ma io voglio combatti. Altri come Johnny Cash lontano da giungare. Come Kurt Cobain quando mette il colpo in scena. Come George Young quando becca la condanna. Poche parole bastano per dirti come sto. Un leone capo branco catturato in uno zoo. C'ho la voglia di fuggire, di mangiarmi queste sbarre. Ma so che appena corro via mi sparano alle spalle. Mi sento come un cocaiero quando alla dogana. Un veliero in mezzo al mare quando soffia Tramontana. Uno straniero solo dentro una città lontana. Mi sento come Method Man senza marijuana. Mi sento come degli ultra che arrivano in città. I fratelli sotto al palco fanno un coro che va. Eccoci di nuovo in diretta, questa era Blasfemi e Maledetti. Allora, iniziamo subito e continuiamo con i rapcore. Iniziamo a parlare appunto del rap che si ascoltano e che ispira, diciamo, la loro musica e i loro testi. Lamentablemente, las condiciones. situazione que estamos viviendo han llegado a ser una miseria insoportable para la gente. Pero hay unos vende patrias ingreídos que todavía creen en una sociedad de antes donde los artistas fuimos bestias de trabajo para la industria. Ese sueño se ha acabado y ahora nos encontramos despiertos en la hora de la revolución, porque no podemos llamar esto movimiento si toda la propiedad intelectual pertenece a los que nos oprimen. Nos compraron el alma barata, hasta la sangre los sacan a Daca ni con un contrato de trampas, pero primero me matan, hermano, porque prefiero morir peleando que ser esclavo. Beh, insomma, è pieno. Nel senso che poi immagino che ci sia anche musica che non sia rap, immagino che ci sia anche un minimo di rap italiano, cioè di tutto, immagino. I still got my mansion off of South Beach. Still do mansions on South Beach. No VIP at the bar, poking vodka. Where my bitches and my niggas stay from over lava. Giustamente, insomma. E te invece che personalmente io sono cresciuto col Wu-Tang. I primi gruppi che mi ascoltavo da ragazzino che beccavo all'epoca era Black Music, no, Black Time si chiamava. Beccavo Tupac, Notorious, andavano a comprare CD da Marocchini a 5 euro. Per me sono un po' la caratteristica di tutti. Beh, poi oltre il rock comunque ascoltavo l'hardcore da ragazzino, suonavo la batteria, insomma, tastiera, suonavo pure. Ho preso pure la chitarra, poi ho smesso. Diciamo che la musica caratterizza un po' la... Sì, sì, sì, tutto. Bravo, bravo. Io continuo a dire che è più rap ovviamente straniero che di influenza è quello italiano, credo che questo sia anche una caratteristica sì, buona. Sì, sì, tutto. Che perfetto, perfetto. Allora andiamoci ad ascoltare appunto uno degli artisti già citati. E qui abbiamo Immortal Technique, una grande canzone. Controlla il negozio e la cultura. La musica se vuelve un commercio basura. E la reina latina pintada come gallina. Es más que bailarina o puta en la esquina. Es abogada, profesora, madre soldada. Y carga nuestro futuro cuando está embarazada. Mira nuestra gente crucificada y la manera desgraciada que estos perros no hablan de nada más que fiestas y riqueza que la gente no tiene. Así que ahora vas a ver la violencia que viene. Un movimiento de verdad ha empezado. Dejamos el imperio corrupto descuartizado. Golpe de estado disparando al presidente. Es hora de revolución nuevamente. Un movimiento de la gente se ha juntado, peleando, liberando los pueblos encarcelados. Golpe de estado y seramos independientes. Es hora de revolución nuevamente. Guerra, guerra, español sin barrera. De seis te mueve la cadera. Este usa tu cabeza, tu mente, tu almenda. No pa' que no baile, pa' que aprenda. Esta industria me da pena. Same shit, misma mierda. El mismo de siempre, yo no me muerdo la lengua. Tú caminas por el barrio y te enconde la prenda. Dile a la prensa, veneno, el guerrillero ya llegó. Con el inmortal y ya el gobierno se asustó. FBI, CIA, gotta pay to get played. Aquí en United States no me interesa ser rey. La voz de los latinos camino sin corte. Somos lo que no compromiso el arte. Veneno, fuego, te firman, te dicen cómo tirar tu flow. Panita mejor tú que no pienso a yo. Esto es fire, so el golpe de estado. La industria la infiltramos. Un movimiento de verdad ha empezado. Dejamos el imperio corrupto descuartizado. Golpe de estado disparando al presidente. Es hora de revolución nuevamente. Un movimiento de la gente se ha juntado, peleando, liberando los pueblos encarcelados. Golpe de estado y seramos independientes. Es hora de revolución nuevamente. Golpe de estado, el mercado me tiene bravo, hermano. Yo pinto el cuadro y el barrio ya está cansado, cabrón. Yo te lo juro que es lo que yo sudo. Es puro, ustedes son burros que venden el culo por el reggaetón. Abre los ojos, cojo el presidente del sello bobo. Le rompo el cuello al pendejo solo con mi cañón. Yo soy la epidemia, la saga, la nueve plaga. La misma palabra en la Biblia que habla de Armagedón. Levanta público, mano, te tienen hipnotizado. Entrenado, inyectándote mierda con la estación. Peleando quiere decir que tú eres pera bruta. No te gusta que te llamen puta, escucha la canción. El sandungueo es tan feo que con doble sentido le dicen a tu hijo que lo haga sin condón. El extremera y el capitán inmortal. Vamos a gritar pa' que viva la revolución. Un movimiento de verdad ha empezado. Dejamos el imperio corrupto descuartizado. Golpe de estado disparando al presidente. Es hora de revolución nuevamente. Un movimiento de la gente se ha juntado, peleando, liberando los pueblos encarcelados. Golpe de estado y seramos independientes. Es hora de revolución nuevamente. Yeah. Laced at Macy's, don't have it, a hatred addict. I need faces mad with frowns when I'm around, or I wasted fabric. I don't for graded till my plush pieces cause you to suck your teeth. Some mean mugging on my clean thugging mean nothing. Women dream I'm your husband. I'm Alice Pushkin, the black poetry writing Russian, ice disgusting. I started bling, how could you question my direction or my time for a collection? Gangsters two-stepping, you hate me, should thank me. But lately, I burn so much trees, I keep environmentalists angry. I'm a rare dude, I'm a wonder, your best success is my worst blunder. Y'all living trendy on pennies, I cop plenty Fendi, Vivian Westwood, I'm good. Get the whole Trump Tower top floor for the hood. Dre and cool, we riding heavy, and why the Miami cause? We make the world go round. Now let's toast to the hustlers. We make the tell the hustlers, we toast to the gangsters. Tell the gangsters, you toast to the ballers. And tell the ballers, pour a glass for all us. Yo, Pop City, my city. Yo me recuerdo when the Latin King señetas used to run this city. Ghetto Black Tribe y los 33. PSBOR en el 93. Hasta Potoque, Sergio Foss, niggas getting it in. Prope High Crew, mano, niggas getting it in. Animal Paradise, doing life. Me recuerdo cuando Wally used to fuck niggas up in a fight. En la Hamilton, cuando Charlie empezó a rapear. Cuando cogieron a China y no tuvo que chotear. Cuando Imael Cepeda siempre estaba pa' pelear. Cuando Crook mato a uno solo con una pata. Me recuerdo cuando Fires was a spa. Hasta el día que por día a cop had to kill another cop. La ciudad estaba so corrupt, cabrón. Hasta la alcalde era mafioso until he got busted. Guaynabo me encendió en la broba. Cuando los tiros se tumbaban más que Rocky Balboa. Me recuerdo cuando Flaco controlaba la Cranston. Pero en mediodía lo explotaron en canto. Cuando me dijeron que a Loki lo mataron. Mira ahora cuánta gente con su nombre su cuerpo marcaron. Cuando mataron a Carlos en el carro de mi hermano. Cuando a mí me tirotearon adentro de Pez Dorado. Cuando empecé a rapear representando a mi estado. Scusate con i problemi tecnici, ma come al solito il bello della diretta è anche questo. Ritorniamo con i rapcore e riprendiamo tutto il filo a come ci siamo lasciati. Allora, andiamo a parlare insomma col Deal, visto che ha in progetto e sta per uscire il suo lavoro, il lavoro solista. Finalmente ci siamo con l'uscita di Passione e Sacrificio. Verso fine mese sarà negli store digitali e nei negozi del settore. E Passione e Sacrificio è semplicemente l'ultimo anno della mia vita, l'ultimo percorso della mia vita racchiuso in rima. Perfetto, perfetto. E appunto su questo, diciamo, come è composto, chi le collaborazioni, raccontacelo allora, un po' in quel senso anche. Il primo featuring estratto dal disco è con Abban ed è Manca l'aria, si trova il video su YouTube. Poi ci sono ovviamente i Rapcore insieme a Noize su Cannabis Rappers. C'è Temperamento che abbiamo sentito adesso e anzi colgo l'occasione per salutarlo perché adesso è dentro, quindi è molto meno fortunato di noi. E da lì poi ci sono i Vandals, che sono un gruppo rock emergente di Roma. Ci sono delle produzioni, la maggior parte delle produzioni sono di Dr. Cream. Ci sono produzioni di Ergo Beat e di Anno Domini. Perfetto, perfetto. E allora andiamoci ad ascoltare subito un estratto da questo lavoro che sta per uscire. Abbiamo Popoli di Sordi. Quando lo può sostituire il dialogo, le parole non perderanno mai il loro potere, perché esse sono il mezzo per giungere al significato e per coloro che vorranno ascoltare l'affermazione della verità. E la verità è che c'è qualcosa di terribilmente marcio in questo paese. Contro gli affari fascisti, tutti i moralisti persero dalle banche a bunker, dunque riciclate all'estero. Poi sangue sulle banconote, verdi, gialle e viola. Lo stesso che ha macchiato anche i diamanti dell'Angola. La gente soffre molto in uno stato che li ignora. Col politico corrotto, con la villa Bora Bora. La faida del petrolio è il demonio per i popoli. I boss in galera dopo l'era d'Angentopoli. Il marcio viene fuori dalle fogne di metropoli. Un colpo nella canna per i personaggi scomodi. Ho imparato la storia di Falcone e di Bastardo. Da Cucchi, da Giuliani e ogni crimine di stato. Con le liriche un soldato ha soldato per combattere. Tra poco scoppia il caos, sei ancora in tempo, vattene. Scolle la clessidra, voglio dirti anche la mia. Se la loro verità è nascosta dietro alla bugia. Ingiustizia, intolleranza e oppressione. E lì dove una volta c'era la libertà di obiettare, di pensare, di parlare nel modo ritenuto più opportuno, lì ora avete censori e sistemi di sorveglianza. Di chi è la colpa? Sicuramente ci sono alcuni più responsabili di altri che dovranno rispondere di tutto ciò. Ma ancora una volta, a dire la verità, se cercate il colpevole, non c'è che da guardarsi allo specchio. Parlo a te, che mi ascolti, te, non so se siete pronti. Il pugno sto microfono per un popolo di sordi. Molti sanno i nomi e tutti i loro affari sporchi. Parlo di scenari amari visti con questi occhi. È l'Italia benvenuti, no business e rifiuti. Riciclo del denaro, vai a chiederla dell'Udvar. Quando accendi senti di omicidi e di tangenti. Poi i boss mafiosi simbiosi con i nostri presidenti. Le condannate a sputa sangue per miseri stipendi. Avvocati e magistrati vanno in giro con la Bentley. Ci prendi per il culo, questo è poco ma sicuro, sicuro. La tua scrivania domani un cocktail al cianuro. Basta, basta, questo grido viene dalla spalla di chi dal basso fondo si sta arrampicando in alto. Voi, dai mani con vestiti al mano sopra tuo blindato. Noi, comuni mortali, paghiamo i vizi dei magnati. Rapcore. Sì, sì, questo è il loro sound, per chi non l'avesse capito. È il sound che viene direttamente dalla periferia della capitale. Allora rientriamo nel vivo della discussione e iniziamo proprio a parlare di che cosa vuol dire vivere nella scena indipendente, scrivere nella scena indipendente. A chi l'onore di parlare, insomma? Rusty Villa. Vai, vai, Rusty. Per non essere volgare, è difficile vivere da indipendenti. Come gruppo indipendente è difficile uscire, è difficile trovare le date, ci sono molti problemi, però se hai amore per la cosa che fai ti accolli tutti i problemi e vai avanti pure per un'aspirazione futura, per qualcosa che raggiungeremo, se spera. Quindi c'è amore nel vostro rap in un certo senso, ma no? Soprattutto c'è amore, ma più che altro il difficile dell'essere indipendenti è magari e fare avere delle lunghe attese a chi comunque sta aspettando che la musica esca, e la maggior parte delle volte sono per comunque problemi tecnici o che siano economici o di altri incarichi, che magari essendo un gruppo dobbiamo pensare a fare musica e fare tante altre cose non le riusciamo a curare, quindi ovviamente l'attesa per l'uscita dei video e dei dischi aumenta proprio per questo. Perfetto, quindi la scena indipendente vuol dire anche spendere soldi, immagino. Sì, che tutti i soldi siano vostri. Non molti soldi, perché diamo spazio anche a registi che cominciano a fare adesso il lavoro, quindi facciamo crescere anche altre persone vicino a noi. Cioè è una grossa uscita, ma ovviamente comunque stai investendo sul tuo futuro, sulle tue ambizioni e sui tuoi sogni, quindi meglio di questo penso non ci sia nulla. Non c'è altro. Allora perfetto, allora ci andiamo ad ascoltare subito The Game con The Kill. Un esatto. Pezzo che avete nuovo scelto mixtape, voi. Mixtape Barp and Patron, anzi vi consiglio di andarvelo a scaricare. Let me crack this Patron and talk to you for a minute. Won't you put that blunt down before you put the chronic in it? Before you do that drive-by, listen for a second. Why you need a 45 when your mind is a weapon? If you use it like you post to, then you could be Malcolm X instead of counting body bags. My niggas should be counting checks. Don't be a follower, nigga. Be a leader. And if that means I lose you on Twitter, then so be it. Had a daughter yesterday, see my baby mama bleeding. Remind me of Keisha getting shot down while she was feeding her baby in the project. I'm supposed to be proud of Compton. I'm just glad me, DeMar and Brandon made it out of Compton. I put on for my city like Jeezy say. Iron out my red rag just for free Weezy day. And since they did, I Instagram like Emmett Till, crack the Patron seal. I can take you back to 03, when ain't nobody know me. My game was regional, like the lower Mary and Kobe. Teach me how to Dougie, come in, little man, show me. Clutching on his mama leg, remind me of the old me. Ain't tripping off no old beats, ain't grinding on my old streets. I'm in the hills, smoking on cigars like an OG. Coolie high, coat cheeks, Levi's, no fleece. Space Jam Jordans, killing them without the cold sheets. Rappers say they trappers, and these trappers think they rappers. Go listen to Blueprint, y'all all hustling backwards. Shout out to my real niggas, Birdman, Styles P. Kiss my nigga Siegel, know them Philly niggas wild beat. Snoop, you insane, cuz. Bun, you a trill one. Nas, we forever since you helped me get a deal, son. And my nigga Fab, write his verses like a wheel. He walked out the booth, it's my turn. Allora, rientriamo in studio e ci stiamo avviando verso la conclusione di questo piccolo spazio con i rapcore che ci siamo presi qui su Radio Onda Rossa 87.9. E andiamo insomma a chiedere a loro quali sono i prossimi concerti, dove possono venire i fan di Roma per vederli. Allora, questo sabato stiamo al cortocircuito in via Filippo Serafini 57 per il Barrio del Rap, che vede protagonisti Barra Cruda, Rack e Marciano. Quindi noi rapcore ovviamente, Di Al Pacino, Rusty Kill, Dr. Cream e Truth, e Abban da Lecce con molti ospiti della South Fam. Il tutto sarà presentato da Lucci dei Broken Speakers. L'ingresso sarà di 4 euro, quindi vi aspettiamo tutti quanti sabato al cortocircuito e il Barrio del Rap. Perfetto, avete anche un'altra data da quello il che mi ricordo, no? 26 febbraio al Brancaleone apriamo ai APMD, gruppo leggendario di New York, col Colle del Fomento e sempre Lucci Broken Speakers. Brancaleone 26 febbraio. Perfetto, abbiamo detto tutto, abbiamo detto che abbiamo anche dei lavori che stanno per uscire. In uscita, quindi state sintonizzati che sta per uscire Passione e Sacrificio, il mio nuovo disco di Di Al Pacino. E per poi speriamo per i primi di aprile ci sarà Intifada, il nuovo album rapcore, quindi state sintonizzati e compratevi dischi, supportate il rap indipendente. Insomma, due bombe che stanno per arrivare presto in streaming, stanno per esplodere qui in questa città e presto per conquistare tutta l'Italia. E ora ci andiamo ad ascoltare proprio uno dei prossimi vostri compagni di palco, e abbiamo un gruppo storico e leggendario di Roma. Esatto. Colle del Fomento, Capo di Me Stesso. Don't show. La vita è dura, capo di me stesso. E già lo sai, fino a che non è finita. Samurai, come unico padrone la mia vita. E sì, la vita è dura, può essere ferro, essere piuma. Non basta ciò che passa, la fortuna. Ho già mandato a farsi fottere il mio piano astrale. Il cielo non mi serve, tanto qui fa un caldo tropicale. I demoni che tornano e mi vengono a cercare, io li scaccio con un gesto come fossero zanzare. Triste ad accertarsi, nulla è cambiato, anzi parecchio è peggiorato e mo so cazzi. Se mi guardo intorno, altro che Tramontecchi e Capuleti. È tutti contro tutti e non ci sono innamorati. Né principi né principesse, solo gente messa in mezzo dalle solite stesse promesse. E sai che se si fa la fame è cane mangia cane, è un mondo di papponi, perciò va tutto a puttane. Tocca spaccare e mordere più forte, perché poco c'è di certo oltre la morte. È tutta una tirata a sorte, ma non ci sto, e adesso me ne fotto del destino e resto il capo di me stesso. Adesso sul flusso di parole stringo la mia vita e i suoi sbagli, senza né guinzagli e museruole. La notte che mi chiama, mi vuole, sono pronto e pago tutto quanto ciò che passa sotto le mie suole. In culo al mondo, a chi ti vuole fermo sullo sfondo, a chi ti ruba il tempo con la scusa che è un bel giorno. Il conto torna tornerà come per incanto. E intanto l'ha già preso tutto quanto. E intanto è così che va, per ogni sfizio uno screzzo, la mia gente lo sa. Dio, che è così che va, per ogni sfizio uno screzzo, la mia gente lo sa. Che la vita è dura, vita è dura. Che è così che va, per ogni sfizio uno screzzo, la mia gente lo sa. La vita è dura, che è così che va. Capo di me stesso, capo di me stesso. Un altro giorno evanescente, ancora un passo nell'ignoto. Straniero sulla terra, con la guerra dentro il cuore, con la formula del vuoto. Capo di me stesso dentro il gioco, ma vittima del fuoco che mi arde dentro mentre cerco un modo. Tutto cambia, tutto passa, tutto ed io ci sono, ma quello che mi passo non lo sanno loro. Se sono un libro con una storia che si sta scrivendo, posso cambiarlo ogni secondo me la invento. Il mio cuore spinato cerca soluzioni sotto un cielo senza stelle in questo giorno spietato. Pago tutto il doppio, niente mi hanno regalato. Eppure nella vita sono sempre stato grato. E poi stato lasciato fuori dalla porta con il mio rompicapo. Fuori dalla moda, fuori gioco e sbagliato. Solo dalla mia parte, convinto e blindato, telecomandato. Ok, andiamo a chiudere la trasmissione 87.9 con i Rapcore e andiamo appunto a presentare l'ultimo brano e fare i saluti. Allora, l'ultimo brano è Desperados, estratto da Intifada, che sarà fuori spero prima possibile. I saluti vanno a Truth che sta lavorando e a nostro amico Ciccio che non se la passa bene in questo periodo. Un abbraccione. Aspettando che esca presto e ci ritorni a trovare. Aspettando che esca presto. Un abbraccione a Ciccio. Questo è Desperados. Intifada 2011. Passione e sacrificio. Supportate il rap indipendente. Dai, è forte. Ti dico una cosa, anche se potrà sembrarti ridicola. Un vero rivoluzionario è guidato da un grande sentimento d'amore. Amore per l'umanità, amore per la giustizia e per la verità. Ho sognato un Eldorado, risucchiato in un tornado di pensieri sul passato, quello che non mi ha ammazzato. Molte crisi ma ho lottato, come Wisi sono rinato. Paradisi di un dannato, qua chiamato Desperado. Di chi lavora in nero e zitto per pagare l'affitto. Si fa la doccia con la pioggia che entra dal soffitto. Di chi sogna l'America, chi una cura medica. Chi pensa che la polizia è la blasfemia dell'etica. Chi al popolo ha rubato infame, sai cosa si merita. Una bomba per regale, sotto trova la mia dedica. Dalba colazione, blitz di perquisizione. Puoi pusher di notizie false, disinformazione. Dove la verità è illusione, l'onestà non ti ripaga. Dove l'ignoranza uccide come un virus che dilaga. Vaccino indipendente proprio come il 4 luglio. Mo' aspetto il carro armato con un sasso dentro al buco. Perché ancora sa sognare, spera di spiccare il volo. Perché attorno a tanta gente ma in realtà si sente solo. Chi si alza la mattina presto per andare al lavoro. Per quelli che ce l'hanno e fanno i soldi a moto loro. Perché ancora sa sognare, spera di spiccare il volo. Perché attorno a tanta gente ma in realtà si sente solo. Chi si alza la mattina presto per andare al lavoro. Per quelli che ce l'hanno e fanno i soldi a moto loro. Dedicata a chi è disoccupato, è nato emarginato. Chi mangia solo un pasto e dai vestiti del mercato. Chi ha fatto l'operaio, chi suda in officina. Chi invece fa il fornaio e si alza presto la mattina. C'è un clima apocalittico, presagio di rovina. C'è fame come in Africa e in America Latina. È un mondo in copertina e sono tutti quanti in posa. Si ruba o si assassina solo per la banconota. La moda vi schiavizza, siete tutti quanti uguali. Idioti siete servi delle multinazionali. La droga ne stepizza ma ci rende solitari. Recicla soldi sporchi mossi dai parlamentari. E sono disperato, consumato dagli stenti. Sto urlando contro il cielo, strofe e note commuoventi. Leggendo dentro i cuori, sorpassando le apparenze. Questo rap è verbo eterno e lascia un segno a chi lo sente. Perché ancora sa sognare, spera di spiccare il volo. Perché attorno a tanta gente ma in realtà si sente solo. Chi si alza la mattina presto per andare al lavoro. Per quelli che ce l'hanno e fanno i soldi a moto loro. Perché ancora sa sognare, spera di spiccare il volo. Perché attorno a tanta gente ma in realtà si sente solo. Chi si alza la mattina presto per andare al lavoro. Per quelli che ce l'hanno e fanno i soldi a moto loro. Resto fermo mentre tutto casca. Il sangue freddo come un mamba. La mia gente resta al mondo, raschia il fondo. Contrabbando, entra in banca senza niente in volo. La rabbia che hanno in corpo si rivolta contro e vanno in gabbia senza sconto. Questo posto è sporco come una 38 dopo un botto. Sono morto, privato ad ogni sentimento. Poi risorto, pronto a tutto perché il peggio l'ho passato. Vorrei il papa assassinato. Di abbracciare ogni fratello carcerato. Fottuto da un sistema che mi vuole cieco e muto. Svegliato da libero, come fossi un detenuto. Questo inferno terreno mi ha cresciuto con violenza e odio. Inietta veleno, poi mi processa a piazzale Glorio. Me ne foto del podio, voglio vendetta e il loro patrimonio. Salì la vetta e uscire in fretta da sto manicomio. Le strade sono spietate, siamo destinati a mala sorte. Noi che a tarda notte giochiamo a dati con la morte.